Il Terzo Anello, ad alta voce, in collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Tony Servillo legge Il giorno della civetta, di Leonardo Sciascia. Il problema è questo. I carabinieri hanno in mano tre anelli di una catena. Il primo è Marchica. Riescono ad afferrarlo così saldamente che è come uno di quegli anelli murati nelle case di campagna per attaccarci i muli. Ma Diego non è un uomo da parlare. Ha quattro dita di pelo sullo stomaco. Lascia stare il pelo sullo stomaco. Il vostro difetto è quello di non capire che un uomo capace di uccidere 10 persone, o 1000, o 100.000, può anche essere un vigliacco. Diego, lascia di pregare, ha parlato. E al suo anello ecco attaccato quello di Pezzuco. Ora i casi sono due. Pezzuco parla ed ecco saldato al suo il terzo anello, che sarebbe Mariano. Pezzuco non parla, resta attaccato a Diego, ma debolmente, che un buon avvocato non faticherà molto per staccarlo. E basta, finisce la catena, Mariano è libero. Pezzuco non parla. Non lo so, mio caro, non lo so. Io i conti li faccio sempre sul peggio che può venire. Consideriamo dunque che Pezzuco parla e Mariano è sistemato per le feste. Ad occhio e croce io dico che in questo momento i carabinieri tentano di saldare l'anello di Pezzuco a quello di Mariano. Se tiene, i casi sono due. O la catena finisce con Mariano, o Mariano, vecchio com'è, sofferente, comincia a cantare il suo rosario. E in questo caso, mio caro, la catena si allunga tanto che mi ci posso trovare impigliato anch'io, il ministro e il Padre Eterno. Un disastro, mio caro, un disastro. Lei vuole farmi diventare il cuore nero come la pece, Madonna Santissima. E non conosce che uomo è Don Mariano? Una tomba. In gioventù era una tomba. Ora è un uomo che nella tomba ha già un piede. La creatura è debole, dice Garibaldi nel testamento, e temeva che nell'estrema debolezza cadesse a raccontare i suoi peccati, che dovevano essere di quelli spinosi come fichi d'India, a un prete. E così dico io, può darsi che a Mariano venga la debolezza di raccontare i suoi peccati, che detto tra noi non sono pochi. Io ho avuto tra le mani nel 27 il suo fascicolo, più grosso di questo libro, indicò un volume del Bentini, e si poteva cavarne fuori una enciclopedia criminale. Non mancava niente, dalla A, abigeato, alla Z, zuffa. Quel fascicolo poi, fortunatamente, scomparve. No, non fare quell'occhio di sarda morta. Non ci ho avuto mano io a farlo scomparire. Altri amici, più grossi di me, hanno fatto il gioco delle tre carte con quel fascicolo. Da questo ufficio a quello, da quello a questo, e il procuratore del re, un uomo terribile, ricordo, se lo è visto scomparire da sotto il naso. Faceva come un cane arrabbiato, mi ricordo, minacce a destra e a sinistra, e i più sospettati, i poveretti, erano quelli che non c'entravano per niente. Poi il procuratore del re fu trasferito e l'acquazzone passò. Perché, mio caro, la realtà è questa, che passano i procuratori del re, quelli della Repubblica, i giudici, gli ufficiali, i questori, gli appuntati. Questa è bella, gli appuntati. Non c'è niente da ridere, mio caro. Io ti auguro di tutto cuore che la tua faccia non venga mai a incastrarsi nella mente di un appuntato. Passano anche gli appuntati, dunque, e noi siamo qui, con qualche soprassalto, con qualche palpitazione, ma siamo ancora qui. Ma Don Mariano? Don Mariano ha avuto il suo piccolo soprassalto, la sua piccola palpitazione. Ma è ancora dentro, chissà che pene sta soffrendo. Non sta soffrendo niente. se tu pensi che lo tengano legato alla cassetta o gli diano le scosse elettriche. Altri tempi quelli delle cassette. Ora c'è la legge anche per i carabinieri. Legge un corno, 3 mesi addietro, lascia stare. Noi stiamo parlando di Don Mariano Arena. Un dito addosso a Don Mariano Arena non lo mette nessuno. Uomo rispettato, uomo protetto, uomo che può pagarsi la difesa di De Marsico, Porzio e Dell'Idala messe assieme. Certo soffrirà di qualche scomodità, la camera di sicurezza non è il Grand Hotel, il tavolaccio è duro, il bugliolo fa venire la nausea, gli mancherà il caffè, poveretto, che ne beveva una tazza ogni mezz'ora, è fortissimo. Ma tra qualche giorno lo rimettono fuori, illuminato d'innocenza come un arcangelo Gabriele, e la sua vita riprende sesto, i suoi affari continuano a prosperare. Un momento fa lei mi ha stroncato le gambe, mi ha fatto morire la speranza, e ora, un momento fa era la faccia con la croce, ora è la faccia con la testa. Io dico che deve venire testa, che le cose debbono andar bene, ma può anche venire la croce. Facciamo venire testa e la croce lasciamola a Gesù Cristo. E allora prendi nota del mio consiglio. Bisogna tirare dal muro il primo anello. Bisogna liberare Diego. Se non fosse stato lui a fare l'infamità, anche se è stato lui, tiratelo fuori. Lasciate correre l'inchiesta, che tanto in mano com'è a quei due volentoni non la ferma nessuno. Lasciatela correre, lasciatela concludere, lasciate che tutto arrivi al giudice istruttore. E intanto preparate per Diego un alibi di quelli che a tentare di morderli ci si rimettono i denti. E che vuol dire? Vuol dire che Diego, il giorno che Colasberne è stato ammazzato, alla stessa ora stava 1000 miglia lontano dal luogo del delitto e in compagnia di degnissime persone, mai censurate dalla legge, galantuomini della cui parola nessun giudice ha il diritto di dubitare. Ma se ha confessato si rimangia quello che ha detto. Sotto le torture fisiche o morali, perché ci sono anche le torture morali dei carabinieri, ha reso dichiarazioni non rispondenti a verità. E la prova che le dichiarazioni rese ai carabinieri sono non veritiere e addirittura fantastiche è che Tizio, Filano e Martino, persone fede degnissime, testimoniano della materiale impossibilità che Diego abbia eseguito il delitto. Solo qualche santo ha avuto il dono di trovarsi contemporaneamente in 2 posti diversi e lontani, e non credo che un giudice possa riconoscere in Diego questo dono di santità. E poi, guarda questo giornale, questa piccola notizia. Negli omicidi di S, una pista è stata trascurata dai carabinieri. Il capitano Bellodi leggeva della pista che, secondo il giornale siciliano, un giornale di solito prudentissimo e alieno dal muovere censure sia pure minime alle forze dell'ordine, aveva trascurato. La pista passionale, naturalmente, che semmai per uno che non conoscesse i dati ormai certi raggiunti nelle indagini, avrebbe potuto condurre a spiegare uno solo dei delitti, lasciando gli altri 2 nell'oscurità più completa. Forse il giornalista, trovandosi a esse, era andato a farsi sbarbare da Don Ciccio, e il racconto della tresca amorosa tra la moglie del Nicolosi e il passerello aveva esaltato la sua fantasia. «Cercate la donna, insomma», diceva il giornalista, «da buon giornalista e da buon siciliano». E invece, e avrebbero dovuto darlo come precetto alla polizia, in Sicilia, pensava il capitano, bisognava non cercare la donna, perché si finiva sempre col trovarla e a danno della giustizia. Il delitto passionale, il capitano Bellodi pensava, in Sicilia non scatta dalla vera e propria passione, dalla passione del cuore, ma da una specie di passione intellettuale, da una passione o preoccupazione di formalismo come dire, giuridico, nel senso di quella astrazione in cui le leggi vanno assottigliandosi attraverso i gradi di giudizio del nostro ordinamento, fino a raggiungere quella trasparenza formale in cui il merito, cioè l'umano peso dei fatti, non conta più, e abolita l'immagine dell'uomo, la legge nella legge si specchia. Quel personaggio di nome Ciampa, nel berretto a sonagli di Pirandello, parlava come se nella sua bocca ci fosse la Cassazione a sezioni riunite, tanto accuratamente notomizzava e ricostruiva la forma senza sfiorare il merito. E Bellodi si era imbattuto in un Ciampa proprio nei primi giorni del suo arrivo a C, tale e quale il personaggio di Pirandello, piovuto nel suo ufficio non in cerca d'autore, che già lo aveva avuto grandissimo, ma in cerca stavolta di un verbalizzante sottile, e perciò aveva voluto parlare a un ufficiale, parendogli il brigadiere incapace di cogliere il suo loico rabesco. E ciò discendeva dal fatto, pensava il capitano, che la famiglia è l'unico istituto veramente vivo nella coscienza del siciliano, ma vivo più come drammatico nodo contrattuale, giuridico, che come aggregato naturale e sentimentale. La famiglia è lo Stato del siciliano. Lo Stato, quello che per noi è lo Stato, è fuori, entità di fatto realizzata dalla forza e impone le tasse, il servizio militare, la guerra, il carabiniere. Dentro quell'istituto che è la famiglia, il siciliano valica il confine della propria naturale e tragica solitudine e si adatta in una sofistica contrattualità di rapporti alla convivenza. Sarebbe troppo chiedergli di valicare il confine tra la famiglia e lo Stato. Magari si infiammerà dell'idea dello Stato o salirà a dirigerne il governo, ma la forma precisa e definitiva del suo diritto e del suo dovere sarà la famiglia, che consente più breve il passo verso la vittoriosa solitudine. Questi pensieri, in cui la letteratura offriva alla sua breve esperienza ora la carta buona, ora la carta falsa, andava rimuginando il capitano Bellodi mentre nel suo ufficio aspettava che gli conducessero l'arena. E stava passando a considerare la mafia e come la mafia si adattasse allo schema che era venuto tracciando, quando il brigadiere introdusse Don Mariano Arena. Tony Servillo ha letto Il giorno della civetta di Leonardo Sciascia. Realizzazione tecnica di Ciro Lutricuso, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, radio3pod.rai.it.